Sai sul Radio Wombat. Otto hertz. No, il discorso del femminismo non c'entra il discorso del titolo. Perché c'aveva un disco della Madonna. Thank you. E buonasera, buonasera per una nuova puntata di 8 Hertz, sempre solo su Radio Wombat. Siamo anche stasera, non sono da solo, sono una di quelle puntate molto belle, forse tra le migliori di 8 Hertz, insieme a Filippo Panichi, che oltre a essere musicista e compositore è anche un po' una fonte preziosissima di notizie e di cultura musicale proprio. È un grandissimo ascoltatore. Ciao Filippo. Ciao. Ciao. E stasera parleremo niente po' di meno che Pauline Oliveros. Faremo tutta una puntata su di lei. Il pezzo che avete sentito ovviamente era suo. Chi è Pauline Oliveros, Filippo? Ma è un personaggio, secondo me, è una delle più importanti compositrici di questo secolo. Poi non so se questa idea è condivisa da tutti. È un personaggio che ha fatto diverse cosette interessanti nella musica sperimentale contemporanea, partendo da una formazione accademica, e è stata anche direttrice di cose istituzionali, mi sembra, dell'Università di San Diego, del Centro d'Arte dell'Università di San Diego, di altri posti, però se n'è anche tolta per tempo, per non rimanere, diciamo, ingabbiata in un ruolo istituzionale, e possiamo dire che ha dato degli ottimi risultati artistici questa sua scelta, e in vari campi, dalla musica elettronica propriamente detta alle sue diciamo invenzioni successive, di cui magari parleremo via via che ascoltiamo pezzi che le esemplifichino, diciamo. Sì, infatti cercheremo di parlare il meno possibile, perché i pezzi sono molto lunghi, lo spazio a disposizione non è infinito, ma anche voi che ascoltate, insomma, è roba comunque un po' difficile da ascoltare, ma più che difficile ha bisogno di molta concentrazione. Per cui cercheremo il più possibile di farvi ascoltare le cose più che per parlarne. Ovviamente non è una lezione di storia della musica contemporanea, per cui diremo qualcosa. C'è magari una cosa da dire che non avevo detto, cioè non si capiva tanto da quello che ho detto fino ad ora, che è un personaggio che non è ascrivibile a nessuna teorizzazione precisa. Cioè non è molto riassumibile quello che ha fatto in una teoria o in una concezione precisa. Sono molte cose, però si sviluppano su cose che sono dagli aspetti sociali, politici, a quelli dell'interazione umana, che non sono magari strettamente musicali. Anche il discorso del deep listening, dell'ascolto, della qualità dell'ascolto. Certo, tutte le cose che ha fatto non sono casuali, c'è stata una ricerca su tutti i fronti, da qualsiasi punto di vista. Sì, e senza essere ancorata a una a una linea predefinita, è il vero concetto di sperimentale, esatto, cioè essere aperti a... E poi vabbè, come diceva Jeff, Jeff è un mio amico, collaboratore. Lo salutiamo, ciao Jeff, se ci ascolti. Jeff Gburek, sì, il nome è difficile da dire anche per lui, penso, è polacco il cognome. E lui diceva che secondo lui l'importanza di... parlavamo del più e del meno, diciamo, ma di Pauline Oliveros, diceva che secondo lui l'importanza del discorso di Pauline è quella di aver riportato, cioè di aver portato all'attenzione della gente il fatto che il senso dell'arte si era un pochino perso nel XX secolo. Cioè questo senso di comunicazione e di libertà che le prime avanguardie avevano avevano sanciso era stato perso quasi immediatamente in teorizzazioni. Esatto, sì. Ingabbiamenti. Infatti, quando ho iniziato un po' a approfondire gli ascolti di Polline di Verus, ho detto a Filippo: ma cavolo, cioè, questa roba qui, cioè, oltre a essere importante a livello di sperimentazione, è pure bella, cioè, è roba bella. L'ho paragonata a un gruppo che mi piace tantissimo, che sono i Coil, che no, ovviamente c'entrano poco o niente con Polline Olivero, sono venuti anche molto dopo, tutto quanto. Però la cosa che mi colpiva dei Coil, lo dico spesso, che alla fine tutto quello che facevano, secondo me, era bello. E sì, qui mi sembra un po' la, diciamo, stessa cosa. Che la cosa in comune che c'è, secondo me, è la parte molto live della questione. Cioè, forse anche emotiva. Emotiva, ma anche, cioè, questo pezzo qui, per esempio, è stato registrato mentre lei lo suonava. Questo pezzo qui si chiama Bye, ricordo, Bye Butterfly. Sì, che è un classico di chi si avvicina appunto a Polline Oliverus. È una composizione, mi pare, del 65, di quando sì, lei era al Mills College. No, era già scritta per il San Francisco Tape Music Center. Ah, San Francisco Tape Music Center è precedente. Ah, ecco. Era un gruppo che ha fondato lei e che poi praticamente è stato traghettato sia nell'Università di San Diego che, cioè, lei ha inventato insomma, certe cose le ha proprio inventate quasi prima che fossero prese nell'università. Però il pezzo che abbiamo sentito, a parte, va bene, contiene dei brani dalla Butterfly, ma è quasi un caso, cioè avevano quel disco lì. Sì, perché praticamente questo disco, questo brano, per fare questo brano sono stati utilizzati due oscillatori, due amplificatori in cascata, un piatto da giradischi appunto con la Madame Butterfly che per caso era lì, e due registratori a nastro usati come delay, sì, come Revox, sì, una volta andavano così, insomma, sì, non c'era il pedalino, c'era il delay che proprio ti sfasava, era molto più ingestibile rispetto al... Occupava un po' di spazio. Era molto grosso, sì. Io direi intanto di mettere il pezzo dopo, poi a sto giro facciamo così, vi facciamo sentire il pezzo e poi ne parliamo. Poi ne parliamo dopo. Quanto dura questo? Speriamo che stavo parlando fuori dal microfono. E questa era 104 di Paulino Oliveros. Come tutti i brani che sentite, se per caso vi siete connessi ora, siate su 8 Hz, appunto il programma di questa sera è interamente dedicato a lei, questa grandissima compositrice, autrice, scrittrice anche, molto molto importante, anche se poco conosciuta fra le masse, si può dire. Quindi anche questo brano era uno delle prime, diciamo, del primo periodo della Oliveros, realizzato in un modo molto particolare, così come particolare tutto quello che ha fatto. Il pezzo mi piace perché è comunque oscuro a suo modo, anche se lei era tutto tranne che una persona oscura, almeno da quello che anche predicava più o meno, anche se poi sull'oscurità ci addentreremo a breve, ma oscurità come profondità più che altro. Sì, profondità. E il pezzo era stato fatto, eseguito con due feedback. Sì, in feedback, praticamente con due registratori a cassetta, a nastro, non era una cassetta, uniti uno con l'altro praticamente. Sì, però in cui uno va nell'altro e quello prima ritorna nell'altro. Esatto, nel precedente. Esatto. E dentro la registrazione all'interno del nastro erano dei loop praticamente. Sì, dei loop di nastro, quello era abbastanza abituale. Il fatto è che facendo in questa maniera praticamente crei una specie di sistema oscillante che va avanti da sé, cioè cambia da sé, capito? Sì, è una specie di generazione automatica. Sì, che poi puoi fare in tanti modi, anche con gli effetti in send return nel mixer. Anche il no input mixer funziona così, solo che quello, se non giri le manopole, poi esatto, il suono rimane così. Invece questo, quando gli davi la via, poi lui faceva da solo. Mettiamo subito quello successivo, perché sul brano dopo invece ci sarà da parlare. Sì, c'è un pochino abbastanza di cose da dire. Tra l'altro, un'altra cosa, proprio te dicevi prima dell'oscurità e della Paulino Oliveros ha continuato a pubblicare le sue cose, quindi se le volete leggere sono su accademia.edu e sono scaricabili a gratis. C'è un sacco di roba grande che, sì, anche secondo me. Mando il brano, ascoltatelo bene in rilassatezza. E questa era la Deep Listening Band, cioè un progetto che sempre di Paulino Oliveros. Tra le cose più importanti che lei abbia mai fatto, il disco si chiama Sì, ovvero Sistine Chapel Change Chance. E questo era un estratto, perché sono dei pezzi molto lunghi. Vi spieghiamo come sono stati realizzati, come è stato realizzato il disco, ma vi ricordo intanto che uno degli strumenti principali di questo disco è un po' il suo strumento principale dopo le sperimentazioni elettroniche. Comunque l'elettronica poi la usata spessissimo anche nelle composizioni successive. Il disco è del 91 e lei suonava la fisarmonica. La fisarmonica era regalatagli dalla madre all'età di 16 anni, e da lì non ha mai smesso di suonarla, che è una fisarmonica modificata, giusto? Sì, in realtà modificata in vari modi. Cioè, anche qui non sempre nello stesso modo. In alcuni casi le modifiche riguardano il discorso della just intonation, cioè le note non seguono il sistema temperato, però sarebbe un discorso un po' più complicato. No, lo facemmo l'anno scorso sulla just intonation con Niccolò Gallio, che è un fonico, è un super tecnico, fu una bella puntata. Riascoltatevela nei podcast del sito se vi capita, così che potete un po' sì, compensare la cosa. Forse Niccolò è più adatto di me a parlare di queste cose. Comunque in altri casi invece le modifiche sono relative a diciamo trattamenti elettronici del suono. Cioè tu dicevi il sistema brevettato da lei, le IS, no? Sì. Stai parlando di quello? Sì, quello non solo sulla fisarmonica, ma anche sugli altri strumenti. Sono comunque trattamenti digitali molto discreti e sempre molto appropriati al materiale. Comunque è importante anche l'aspetto collaborativo di questa cosa. Cioè, questo sistema era un sistema progettato da lei e poi sviluppato con l'aiuto di varie persone, perché lei aveva proprio a quel punto una fondazione Paulino Oliveros in cui lavoravano varie persone, e che permetteva ai vari esecutori di gestire diversi parametri del suono per conto loro. In più c'era una parte, diciamo, di una specie di elaboratore di computer condiviso, che quindi permetteva agli esecutori di gestire anche una parte dei suoni degli altri, diciamo. Ma questo disco perché è importante? Perché il titolo della band proprio è Deep Listening Band, che lei un po' formò questa scuola, tra virgolette, o questo genere, ancora più tra virgolette, che si chiama Deep Listening, ovvero ascolto profondo. Sì, il termine ascolto profondo è un po' una specie di battuta, un gioco di parole, perché lei lo inventò dopo che loro andarono a suonare in una caverna a una profondità, e quindi deep vuol dire profondo, e era una persona abbastanza ironica, però riguarda la consapevolezza dell'ascolto. Infatti, sì. Cioè è un discorso sulla qualità dell'ascolto, sono tutte cose registrate in ambienti che hanno delle particolarità sonore, in alcuni casi dei riverberi, in alcuni casi perché sono in posti strani, in alcuni casi per varie caratteristiche, e questo lei lo vedeva come un aspetto sociale, cioè ha sempre avuto una parte molto educativa e sociale. Certo. Per esempio questo disco, del brano che abbiamo sentito, insomma l'estratto, è stato registrato, come dice anche il titolo dell'album, nella Cistern Chapel a Washington, ovvero era un cisternone, appunto Fort Worden, sì, una cisterna con riverbero di 45 secondi, Che viene sfruttato per creare queste queste sovrapposizioni e questo effetto, questi drone. Insomma, un riverbero naturalissimo, quindi non processato con altre diavolerie in realtà. Sì, lei sottolineava sempre che anche questo suo sistema di trattamento sonoro era cioè le fonti erano sempre comunque strumenti acustici. Certo. L'elettronica lei ci ha giocato da ragazzina, poi è passata altro, diciamo. C'è sempre comunque questo aspetto della socialità, cioè della condivisione, perché secondo lei quello che si era perso era il fatto che la musica del Novecento era iniziata con delle grandi rotture, delle avanguardie, però si erano cristallizzate subito in delle regole. E invece l'indicazione buona per lei era questa indicazione della libertà del fare musica tra esseri umani, cioè uno con quell'altro. È legato al principio sempre suo del sonic awareness, sì, cioè di questa consapevolezza interna poi che la musica, il suono ti deve dare. Un motto suo era cerca di ascoltare sempre il più possibile, quando non ascolti riascoltati in testa quello che hai ascoltato. Sì, sì, sì, sì. Fa parte proprio sì, degli esercizi. Lei ha avuto la fortuna di continuare a lavorare fino a pochissimo tempo prima di morire. È morta nel 2016, purtroppo, lo ricordiamo. Sì, e come ha detto la Falis, prima di morire stava benone. Cioè, è stata in attività fino all'ultimo e sempre con cose anche didattiche. C'aveva molto... C'aveva dei progetti per bambini con disabilità, insomma, su vari campi. Credo che fosse evidentemente brava anche a trovare finanziamenti, perché insomma tutta questa organizzazione era abbastanza grossa. Sì, si scopre nelle varie biografie che trovi, o nelle informazioni che trovi su internet, che lei diventò anche una grande karateka, cintura nera, e mi dicevi appunto che è comunque questa scelta del karate riguardava comunque sempre il tutto, quello che per lei è il tutto e che quindi principalmente ha a che fare con il suono, perché questa sì, è bellino da raccontare secondo me. È anche un affinamento dei sensi, cioè il karate come disciplina diciamo che sviluppa, a me delle persone che lo praticano mi hanno detto che diciamo che riattiva delle parti del cervello e noi non siamo molto abituati a usare, che riguardano più la parte animale. Comunque per lei è proprio un discorso abbastanza, non so come dire, olistico, cioè la musica riguarda un po' tutti gli aspetti del corpo e della percezione, quindi a lei del karate interessava questo aspetto di concentrazione e di espansione sensoriale. Però anche lì ci è andata fino in fondo, perché insomma... Sei arrivata a essere cintura nera, vuol dire che sì, hai avuto una costanza non indifferente. Sì, francamente doveva essere una persona discretamente caparbia, perché poi anche le altre cose, so, altre sue tematiche parecchio erano il femminismo e anche lì c'è sempre andata giù abbastanza... Beh, di quello magari ne parliamo dopo, Tom. Sì, certo, ora facciamo sentire un altro tipo di musica che è sempre più lunga, tra l'altro. Ma voi alzate il volume, che tanto non ci sono più picchi strani come siete abituati ad ascoltare nelle altre trasmissioni. È tutto molto liscio e appunto profondo. E quindi buon ascolto, 8 Hertz con Filippo Panichi su Paulino Oliveros. Thank you. Lei era Pauline Oliveros, perché tutta la puntata è su di lei, su 8 Hertz stasera, insieme a Randy Rein-Rausch, non so bene la pronuncia. Ci sono delle cose da dire su questo pezzo. In primis è che è bellissimo, per cui l'abbiamo scelto perché era bello, fondamentalmente. Perfetto nel suono, proprio non ha un difetto proprio. E poi che fa parte di appunto un box che è una sorta di mista, di compilation, però in realtà con più brani, di più persone. E in questo box si chiama Driftworks del 1997. Oltre a lei e Randy Rein-Rausch, c'è cioè Thomas Conner, Nijumu e Paul Schutz. Si diceva dell'importanza delle compilation per far arrivare a più persone vari tipi di musiche. L'importante, sì, che in realtà sono state importanti per ogni genere. Abbiamo fatto sotto Hertz tempo fa una cosa che si basava molto sulle compilation, anche per quanto riguarda il punk, il post-punk o l'hardcore. Se vi ricordate, ora non mi ricordo perché il titolo è lungo, però tutta la scena post-hardcore e hardcore americana, della compilation famosa Let Them Eat Jelly Beans, ecco, si chiama. In ogni genere o pseudogenere c'è sempre una compilation che è diventata una sorta di Bibbia sia per gli appassionati che anche per i neo conoscitori, per chi vuole ricercare qualcosa, ha già alcuni nomi già pronti, e quando è di alta qualità si trova tanti artisti di alta qualità in un unico supporto, diciamo. Poi questa composizione è stata fatta appunto con la fisarmonica, che appunto era lo strumento principale di Pauline Oliveros, e invece Randy Rein-Rausch suonava questo dan bao vietnamese, che è una sorta di zither con un'unica corda, suonato nelle armoniche, non so bene come. E vi volevo fare anche rendere conto che sono gli anni 90, lei ha agito molto in quegli anni facendo appunto questi tipi di composizioni ambientali, ma bisogna ricordarsi che gli anni 90 erano anche il periodo d'oro della New Age, cosa che a noi non interessa e non è assolutamente classificabile come New Age, perché per tanti motivi, fondamentalmente perché non è una cosa cialtrona, non è una cosa tirata via, non sono brani in cui pigi la tua bella tastiera digitale che hai comprato da un sacco di soldi e fai tre accordini o tre note, tutto bene, no, questa è roba veramente suonata, appunto. Sì, suonata con una coscienza di vari aspetti del suono non indifferente, insomma, che poi è quello che dicevi prima, che la fa essere bella, insomma, oltre che puoi parlare di procedimenti, di come è stata ottenuta, eccetera, eccetera, però soprattutto è anche musicale. E mettiamo il pezzo successivo, ma vi ricordo di scriverci su postwombat@insiberia.net, di dare ovviamente una sbirciata fondamentalmente al sito, che è wombat.noblogs.org, per tutti i podcast, le notizie anche di rassegna stampa, che da quest'anno è nata e è diventata una parte molto importante della radio. C'è un Twitter, un Facebook, ma boh, insomma, se lì ci sono alcune notizie, ma guardatevi tanto il sito ogni giorno, e se vi siete persi le trasmissioni, ricercatele, perché dopo poco le vedrete apparire magicamente in podcast. E rilassatevi, perché questo è un altro pezzo importantissimo nell'opera di Plinio Oliveros, e poi vi spieghiamo il perché. Buon ascolto. Alzate i volumi. questa era sempre tratta da, da, da un, dal progetto su della Deep Listening Band, insieme a The Long String Instrument. Il disco si chiama Suspended Music, e ora non mi ricordo gli anni. Comunque è il primo, è il brano d'apertura, che si chiama Epigraph in the Time of IDS, del 94. Del 94, mi dice Filippo. Ce l'ha in mano tutto quanto. Si chiama Epigraph in the Time of IDS parte 1, che è proprio il primissimo, i primi minuti di questa, di questo album. E The Long String Instrument in realtà sarebbe Ellen Fullman. Parlaci di lei, Filippo, che insomma ne sai tanto anche di lei, che è un'altra sperimentatrice parecchio tosta. Sì, io la conobbi, penso per caso, conobbi prima lei di Pauline Oliveros. Ah, mi sembrava. La maggior parte delle cose che ho sentito fatte da lei sono fatte con questo strumento che lei inventò a scopo terapeutico, cioè era nei primi tempi dell'AIDS, della diffusione dell'AIDS, e lei aveva un amico malato e pensava di curarlo così. Anche questo strumento ha a che vedere con la Just Intonation, bene, per vari motivi, insomma, funziona su un principio, sono corde lunghissime, poi ce ne sono varie versioni, diciamo, di varie lunghezze a seconda dei posti dove ha fatto le performance, però si basa su questi battimenti che si creano dallo sfregamento di queste corde di lunghezze di decine o anche, insomma, sì, svariate decine di metri, che praticamente si discosta. Sì, il minimo mi sembra era 21 metri, tanto per far capire, sì, insomma, la grandiosità di questo strumento. Sì, lei ci cammina, la lunghezza. Cammina lungo queste corde con le mani praticamente tipo impesciate, con della roba che faccia attrito, strofina queste corde e la, diciamo, le onde che si creano hanno delle specie di battimenti tra loro che fanno questa specie di drone. I battimenti sono causati dal fatto che la corda lunghissima, invece che fare un'onda, diciamo, pura, sinusoidale, si discosta per via dell'attrito e di altre... Sì, cose, sì, dal comportamento teorico. È uno strumento molto molto bello. Sì, tra l'altro di questo disco, che è anche una performance, potete vedere anche il video che sì, che ci uscito. Sono diversi video, dicevo bello in quel senso lì, che c'è un aspetto molto, diciamo, immersivo, cioè ci stai dentro. Esatto, lei sì, che sì, lo sì. Suona, ma in parte anche il pubblico, infatti. Questa cura per questo suo amico consisteva nel farlo suonare con lei, diciamo, anche, no? Certo. E la cosa curiosa anche che insomma, c'era un po' una sorta di orchestrina all'interno della performance. C'era un didgeridoo, il trombone, la voce, e poi il computer e l'elettronico. Il computer credo che c'era appunto quel sistema che aveva creato lei. Sì, Expanded Instrument, sì. System si questo chiama. Disco lo potete anche ascoltare, ma il punto è che è tutto così unito e miscelato che fai fatica a distinguere uno strumento piuttosto che un altro. Sì, in parte per questi trattamenti digitali, che essendo comunque fatti sul suono, con il suono degli strumenti e sul suono degli strumenti, spesso sono quasi indistinguibili. Però in parte anche proprio sia per lo sfruttamento dell'acustica dei posti che per, diciamo, abilità tecniche degli esecutori. Come dire, sono... è questo... questa specie di scuola impalpabile che ci avevano queste persone, cioè una disciplina più che una, certo, che sì, una sì, teoria sì, a priori o una cosa preconfigurata, ecco. Sì, è roba suonata. No, infatti, non è una tastiera pigiata. Mettiamo un altro brano, il penultimo, perché insomma, se no si va troppo per le lunghe, anche se sarebbe bello fare una puntata di 4 ore mettendo solo la roba sua. Buon ascolto. Thank you. Questo brano era tratto dall'album This Grateful Stage del 1990, anzi scusate, era il brano si chiama This Grateful Stage, tratto da Crown Music del 1990, che era un'opera commissionata dal Mabu Mainz, che sarebbe un collettivo di teatro sperimentale di New York che doveva fare il Lear di William Shakespeare. Sì, credo che l'abbiamo fatto. Sì, lo so, io in realtà ho questo disco, però, cioè, quindi insomma lo conosco anche abbastanza, però non lo so poi lo spettacolo esattamente cosa fosse. È un dia, l'abbiamo scelto perché è una cosa un pochino più, tra virgolette, quasi più acustica. Sì, diciamo che si sentono gli strumenti anche un po' più come strumenti, e per certi versi, se uno ascolta profondamente, come potrebbe dire lei, si sentono anche i trattamenti digitali fatti agli strumenti. Esatto, e poi insomma anche questo era un pezzo così bello da ascoltare. Sente l'accordeon suonato. La fisarmonica, sì. Sì. Che lei era anche una brava fisarmonicista, cioè ci sono anche cose suonate, c'è un video con Cecil Taylor, se volete su YouTube lo trovate, dal vivo molto bello, insomma faceva anche cose con delle note più di una per ogni 10 minuti. E siamo alla fine e concludiamo, anche se appunto sarebbe molto più lunga la cosa. Ci sono dei brani che sono lunghi mezz'ora, 35 minuti, anche di Noise, che pare Merzbow, insomma, che sarebbe bellissimo farvi ascoltare, ma stasera non si può. Sì, perché sennò poi ci sono le collaborazioni, ci sarebbe un tipo Electronic Works, mi sembra si chiami, un sì, cofanetto di una dozzina di CD, che ci sto ancora sopra da qualche anno. E quindi abbiamo scelto un pezzo funereo del 1998, l'album si chiama Ghost Dance, che era una collaborazione tra il Messico e gli Stati Uniti. La Ghost Dance infatti è un rito un po' religioso messicano. E il pezzo è proprio l'ultimo dell'album, si chiama Last Time o Ultima Vez, appunto sottolineando il bilinguismo, il progetto. Noi vi diamo la buonanotte, spero che vi sia piaciuta Paulina Oliveros, fatevi voi i vostri percorsi ascoltando le tante cose che ha fatto, andate a vedere anche il sito che ha lasciato e gli studi che ha lasciato ad altri. Buonanotte, grazie Filippo, faremo altre trasmissioni via. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Buonanotte. Ciao, buonanotte.